Edizione straordinaria, è morto Tom Cena. Tenga signore, tenga. Edizione straordinaria, è morto Tom Cena. Tenga, prenda, legga in prima pagina. È morto Tom Cena, edizione straordinaria. Tenga, legga signore, legga. È morto Tom Cena, edizione straordinaria. In mano, la mira dell'altra, combina la lista della sua disfatta. Tom Cena sta morendo, purtroppo lo mento. Tom Cena sta scrivendo casualità. Del nostro amico Tom Cena lo portarono a scrivere una lista di cose da fare prima di morire. Quando compro un'auto più la spari in autostrada, frigo il cecchio in mano, brillo finché il mondo cade. Forse sono vivo, mi faccio una schiacciata, fai nel vuoto giambero con la corda allacciata. Six, voglio un trip minimo 10 ore e mezza, se per noi e poveri fare beneficenza. E vado in e mi sballo di ballare finché muoio, così voglio continuare. Tom Cena sta morendo, purtroppo non mento. Tom Cena sta scrivendo.